La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 7 novembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questa settimana proveremo ad analizzare un argomento di cui si sente parlare molto spesso nelle discussioni degli astronomi, e stiamo parlando della cosiddetta ottica adattiva, un'ottica particolare che permetterebbe di correggere il cosiddetto fronte d'onda proveniente dallo spazio. E ne parleremo col professor Roberto Regazzoni, astronomo ordinario presso il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti, ciao. Roberto, come avrai ascoltato dai nostri podcast, abbiamo all'inizio 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. E quindi se ti chiedessi in 100 parole di descrivere l'ottica adattiva, tu che cosa mi diresti? Ok, non è facilissimo, ma ci provo. Tutti i sistemi ottici fanno praticamente una copia di un'immagine ottica tra una parte e l'altra. Per esempio un proiettore cinematografico rende l'immagine che è sulla pellicola la copia sullo schermo. L'ottica adattiva fa questo tipo di cose, però introduce delle aberrazioni, deforma, deturpa, rende in un certo senso, modifica, deteriora se vogliamo l'immagine, ma lo fa in un certo modo intelligente, in modo da compensare le distorsioni, le deformazioni delle immagini che sono avvenute per altre cause che magari dopo vedremo. Quindi è un sistema di ottica adattiva che introduce deliberatamente e continuamente variabile delle deformazioni dell'immagine per uno scopo che magari dopo vediamo più precisamente. Perfetto Roberto, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi continueremo a parlare di ottica adattiva, tentando di trattare nella prima parte della trasmissione un pochino la struttura dei telescopi e il perché è nata questo tipo particolare di ottica. So many years gone away, stranger beneath my skin. The tape in my head plays on and on and on and on, shows me what I've become. And I tried to forgive you so many times. I've let e bentornati ai nostri radioascoltatori. In questa puntata stiamo provando a parlare di ottica adattiva insieme a Roberto Regazzoni dell'Osservatorio Astronomico di Padova, e ne stiamo parlando cercando di capire un pochino come è fatta e perché nasce. Prima di tutto cerchiamo di partire da un dato di fatto. Ci sono vari tipi di telescopi, telescopi lunghi e telescopi corti, telescopi più larghi e telescopi più stretti. Qual è esattamente la differenza e da dove si parte per introdurre la parola telescopio? Ma il telescopio serve per di guardare gli oggetti lontani, diciamo, quindi gli oggetti astronomici dalla Luna, che per un astronomo è estremamente vicina alle galassie più lontane dell'universo, quindi telescopio per guardare le immagini lontane. Questo è fatto da Galileo in poi, e c'è un life, un fil rouge, diciamo, che accomuna l'evoluzione dei telescopi. La gente ha voluto guardare telescopi, costruire telescopi via via più grandi per guardare oggetti via via più deboli, che potrebbero essere oggetti più piccoli nelle vicinanze. Sto pensando per esempio agli asteroidi, a osservare asteroidi sempre più piccoli in vicinanza della Terra, oppure oggetti come stelle o galassie, ma via via più lontane. Quindi, per esempio, guardare gli oggetti addirittura nelle epoche in cui si è formato l'universo. Per fare questo ha costruito telescopi via via di dimensioni maggiori. Ok, quindi quello che conta in un telescopio non è tanto la lunghezza, ma quanto il diametro, la larghezza del telescopio. All'inizio si facevano telescopi sostanzialmente a lenti, c'era una lente in ingresso che raccoglieva la luce e la focalizza in un punto, dove poi prima l'occhio dell'osservatore, poi una lastra fotografica, poi più recentemente dei dispositivi che oramai abbiamo tutti nei nostri cellulari, macchine fotografiche digitali eccetera eccetera, che sono chiamati CCD, magari ne parliamo rapidamente dopo, viene concentrata la luce in quel punto. Più è grande il diametro del telescopio e più ovviamente si raccoglie più luce, quindi si possono vedere oggetti via via sempre più deboli. Inizialmente la gente costruiva questo con lenti. Questo è successo più o meno fino alla fine del 1800. Dopodiché la gente si è resa conto che è più semplice costruirlo a specchi, quindi c'è un unico grande specchio, come una specie di grande specchiustore, se vogliamo, che raccoglie la luce delle stelle, galassie, eccetera, e le concentra in un unico punto. Scusa l'interruzione, ma se potessimo dare due nomi? I telescopi a lenti sono anche detti telescopi rifrattori, e i telescopi a specchio sono anche detti telescopi riflettori. Dopo ci sono tutta una serie di altre modifiche per come poi è reso accessibile questa luce mediante altre combinazioni di specchi. Adesso, senza fare disegni, è difficile rendersene conto, ma l'importante è che queste sono le due divisioni. In più, in pratica, diciamo, nell'astronomia moderna i telescopi sostanzialmente sono telescopi riflettori. Il telescopio di Monte Palomar, di cui sicuramente tutti hanno almeno sentito parlare, è un diametro di circa 5,2 metri. Il telescopio italiano, su territorio italiano in questo istante, più grande è il telescopio di Asiago, che è 1,82 metri. I telescopi più grandi del mondo, di cui alcuni sono italiani, però non sono situati su territorio italiano, dopo magari vediamo un attimo perché, hanno diametri che vanno da fino a 8-10 metri di diametro, e spesso, siccome anche c'è un costo collegato a gestirli, diciamo, tendono a, come si dice, a essere vicini l'uno all'altro, quindi la gente tende a mettere pochi in un posto, più di un telescopio, tende a farlo in posti dove le condizioni meteo sono ottimali, in cui anche le condizioni dell'atmosfera sono favorevoli, e su questo torneremo a breve, ma in pratica l'idea è di metterli in dei picchi molto alti, perché ovviamente più siamo in alto e meno c'è disturbo dell'atmosfera o delle nuvole, che possono essere più basse, e magari dove intorno l'ambiente è piatto e omogeneo, in modo che non ci siano situazioni locali di turbolenza o di meteorologiche particolari, come può essere all'interno dell'Europa, per esempio, se uno mette un telescopio nelle Alpi c'ha da una parte un arco alpino e così via. Quindi tende a mettere queste robe tipo in una montagna, in un picco isolato in mezzo a un deserto, quindi vediamo i telescopi in Arizona, abbiamo i telescopi nel sud dell'America, nel Cile, oppure nei picchi isolati in mezzo agli oceani, quindi abbiamo i telescopi alle Canarie oppure alle isole Hawaii, tanto per fare degli esempi pratici dove ci sono telescopi di queste dimensioni. Ecco Roberto, siamo arrivati a uno degli argomenti più importanti della trasmissione. Una volta c'erano i cosiddetti telescopi rifrattori, quindi i telescopi con le lenti, e queste lenti erano tendenzialmente piccole, le strutture erano molto lunghe, quindi a un certo punto si è deciso di passare a un'altra struttura, che fosse la struttura a specchio, che permetteva di fare telescopi più piccoli e un pochino più larghi. Solamente che i telescopi di oggi, i telescopi con gli specchi, sono telescopi che hanno un peso specifico dello specchio molto molto importante. E allora, uno dei tanti problemi: come si fa a controbilanciare il peso così importante di un telescopio, per esempio da 8 metri, perché qua non stiamo parlando di un telescopio da 40-50 centimetri, ma stiamo parlando di telescopi e pesi molto importanti. Ecco, se uno vuole costruire un telescopio con uno specchio di un diametro di 8 o 10 metri, sperando, diciamo, che la sua forma rimanga inalterata. Qui stiamo parlando di superfici che sono lavorate con precisione, per dare un'idea, del 10-20 nanometri, okay, di precisione. Quindi ovviamente voi sapete, qualunque struttura, se io inizio a, purtroppo il telescopio deve puntare nel cielo, quindi io ho uno specchio di 8-10 metri di diametro che devo movimentare e puntare verso Alfa Centauri, verso la Luna, verso una lontana galassia, quindi devo muoverlo rispetto alla gravità della Terra, e facendo questo si deforma. Se io voglio fare in modo che questo non succeda, devo farlo spesso circa un sesto del suo diametro, il che renderebbe il peso dello specchio enorme, a sua volta la struttura che dovrebbe sostenerlo dovrebbe essere enorme, la cosa diventa rapidamente antieconomica, okay? Quindi in genere la gente tende a costruire questi specchi sopra diciamo un letto di attuatori, di pistoncini che sia in grado di spingere e tirare, in modo che lo specchio, anche se non è perfetto, una volta adagiato su questo letto di martinetti, se uno vuole immaginare, che possono spingere e tirare in modo intelligente la parte posteriore dello specchio, rende la superficie continuamente regolare. Questa è quello che prende il nome di ottica attiva, diciamo, perché ha un tempo scala più lento, quindi io riesco a fare questo nel giro di una decina di secondi, 15 secondi, un minuto, a seconda della dimensione dello specchio. E in pratica cosa faccio? Diciamo, scambio metallo, scambio peso di metallo e vetro, che sono, diciamo, un materiale stupido se vogliamo, ma passivo, con tecnologia. Io metto degli attuatori intelligenti, ci metto un computer sufficientemente veloce e intelligente che controlla in continuazione, e in cambio tutta la struttura viene a pesare estremamente di meno. Alcuni altri specchi addirittura sono segmentati, viene fatto uno specchio di 10 metri di diametro, in realtà è costruito da un grande numero di segmenti esagonali, e fra l'altro il primo di questi è stato il telescopio Keck alle Hawaii, e per essere sicuri che i bordi dei segmenti esagonali da circa un metro e mezzo di diametro siano in continuo uno rispetto all'altro, in modo che apparentemente la superficie dello specchio sia uniforme, sono stati montati dei sensori al bordi di questi specchi, e questi sensori erano diciamo sviluppati sullo stesso meccanismo dei sensori che vengono usati nelle chitarre elettriche per misurare la posizione delle corde per fare il suono, ecco, quindi c'è una connessione, se volete, fra la musica rock, non so come dirlo, e questi specchi segmentati in questi telescopi da circa 10 metri di diametro. Allora Roberto, adesso mi devi aiutare un po', perché voglio fare un'analogia. Facciamo finta che il fronte d'onda proveniente dallo spazio sia una specie di trenino che viaggia alla velocità della luce. Facciamo finta che questo trenino parte dalla stella e poi arrivi a terra. In mezzo, fra la stella e terra, c'è la dogana. Quanto è importante quella dogana per fare in modo che quel trenino arrivi in maniera coerente sulla Terra? Cioè, che funzione ha l'atmosfera? Questa è una situazione molto buffa, perché se io osservo, voi sapete che se io osservo un oggetto che è lontano, non so, 1000 anni luce, ha impiegato 1000 anni per venire fino a noi, poi nell'ultimo millisecondo, anche meno, decimo di millisecondo, passa nella nostra atmosfera. In questa atmosfera questo trenino, come l'hai chiamato te, di onde elettromagnetiche che arrivano a seconda di incontra l'atmosfera è calda, fredda in punti diversi. Qui stiamo parlando di variazioni di temperatura, non quando diciamo che per esempio in Italia ci sono 20 gradi e in Francia ce ne sono 15, per cui non variazioni di questo tipo, ma variazioni su scala di centimetri, ok? Quindi in ogni istante, anche nella vostra stanza in questo momento, probabilmente in due punti distanti tra di loro 2-3 centimetri c'è, non so, qualche millesimo di grado di differenza in temperatura. Questo rallenta o accelera, diciamo, questi trenini di onde in modo differente, per cui il fronte d'onda, queste onde elettromagnetiche provengono da una galassia, da una stella lontana moltissimo ai margini del nostro universo, sono rimasti coerenti, cioè i trenini di onde si comportano tutti nello stesso modo fino all'ingresso dell'atmosfera, e negli ultimi grosso modo 10-20 km di atmosfera vengono deformati, viene l'immagine appunto di questo oggetto viene deformato in questa maniera. L'effetto più, diciamo, grossolano che può osservare chiunque in una notte stellata, se ovviamente non è nuvoloso, è quello della scintillazione. Le stelle non sono costanti nella loro luminosità, ma continuamente scintillano, variano repentinamente di luminosità, il che rende anche l'immagine del cielo stellato molto pittoresca, molto divertente, molto romantica anche se vogliamo. Però immaginate il povero astronomo, se deve per esempio misurare quanta luce viene da quella stella, il fatto di avere questa fluttuazione ovviamente gli impedisce di fare una misura più precisa di tanto. Questo è proprio un effetto dovuto alla turbolenza dell'atmosfera, che continuamente focalizza verso il nostro occhio e quindi vediamo la stella più brillante, oppure sfuoca la luce della stella rispetto al nostro occhio e quindi la vediamo leggermente più debole. Questo fluttuare di luce è lo stesso fenomeno del sfasamento di questi trenini di onde elettromagnetiche che vengono da un oggetto lontano, e quindi il deterioramento dell'immagine. Per cui dei due motivi per cui io costruisco un telescopio più grande, che è quello di raccogliere più luce, questo è abbastanza comprensibile, se io costruisco un telescopio di 8 metri di diametro, ho un catino di 8 metri di diametro e tutta la luce che arriva riesco a raccoglierla, mentre invece se ho un telescopio solo, non so, da 10 centimetri ne raccolgo molto di meno. Il secondo motivo per cui uno costruisce un telescopio più grande non è solo raccogliere la luce, ma essere in grado di vedere dettagli più fini, cioè riuscire a capire per esempio come è fatto in dettaglio una roccia o un cratere sulla Luna, o come si dispongono le stelle in una nebulosa, o come tra di loro si formano le spirali, si intrecciano le spirali di galassie lontane e così via. Questo viene deteriorato, viene deturpato, e questo deterioramento avviene sullo stesso tempo scala della scintillazione, cioè del fenomeno per cui le stelle cambiano di intensità. Quindi l'immagine che io, l'astronomo, vedrebbe mettendosi a un telescopio di questo tipo è di un'immagine continuamente disturbata, sempre continuamente sfocata in modo differente. Ecco che qui entra l'ottica adattiva. Roberto, questi trenini lasciamoli un attimo dove sono, per adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e poi continueremo con la trasmissione. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, stiamo provando a parlare di ottica adattiva insieme a Roberto Ragazzoni dell'Osservatorio Astronomico di Padova, e siamo arrivati più o meno a capire qual è la funzione dell'atmosfera nel momento in cui arriva il fronte d'onda direttamente dallo spazio. A questo punto cerchiamo di capire come è strutturata l'ottica adattiva. Sappiamo che lo specchio è diviso in tante parti, che sotto ogni parte c'è un piccolo pistoncino che corregge il fronte d'onda, ma effettivamente come è fatta l'ottica adattiva dal punto di vista tecnico, visto che è una delle ottiche più difficili da realizzare? funziona in questa maniera: la luce viene raccolta dal telescopio, facciamo finta di avere un telescopio di 8 metri di diametro, come è i telescopi in Cile, di cui l'Italia fa parte del gruppo che ha costruito questi telescopi, oppure come i telescopi in Arizona, Large Binocular Telescope, di cui l'Italia fa parte. Sono questi specchi da 8 metri di diametro, raccolgono la luce, dopodiché viene la luce non viene concentrata in un unico punto, ma viene diciamo diffusa su una superficie che, se era 8 metri il diametro del telescopio, facciamo finta è di 8 centimetri, il numero è leggermente diverso, ma non mi sto sbagliando di molto adesso, quindi fa una riduzione di un fattore 100, diciamo. Qui c'è una piccola superficie che a volte è di alluminio, a volte di vetro molto sottile, eccetera eccetera, piena di un grandissimo numero di pistoncini, che in genere sono piezoelettrici, che sono in grado di spingere e modificare, deformare questa superficie in un modo continuamente variabile. Quindi io costruisco una specie di specchio, okay, che però, anziché essere piano, come è lo specchio con cui uno si guarda se è sufficientemente narciso, oppure lo specchio della macchina, lo specchio del retrovisore, eccetera eccetera, questo specchio non è piano, ma è uno specchio che si può deformare, come nei baracconi ci sono, no, gli specchi che deformano, però questa deformazione non è fissa, ma è continuamente variabile, e io posso, con un computer che comanda con una serie di cavi elettrici tutti questi attuatori sulla parte posteriore di questo specchio, posso rendere questo specchio ingrassante, per fare l'esempio dei baracconi, o dimagrente, o forme molto più complicate, diciamo. Posso in pratica deformare la luce del telescopio che viene raccolta. Perché lo faccio su un diametro di 8 cm? Perché voi vi rendete conto che, siccome la turbolenza terrestre, che è quella responsabile appunto della scintillazione delle stelle, agisce in modo estremamente rapido, io non posso permettermi, non riuscirei a muovere lo specchio, che è di 8 metri di diametro ed estremamente pesante, con questa velocità. Allora cosa faccio? Faccio un trucco: otticamente prendo la luce che va sugli 8 metri su uno specchietto grande 8 centimetri, questo specchietto è sottilissimo, bastano forze piccolissime per deformarle, ci metto dietro un grande numero di piccoli attuatori, questi attuatori riescono a deformare questo specchio con sufficiente velocità. Questo ancora non è sufficiente, perché devo anche sapere come deformare questo specchio, diciamo. E questo viene fatto tramite un sensore che in pratica vede come l'atmosfera sta deteriorando l'immagine di una stella. Quindi idealmente io cosa faccio? Col telescopio punto una stella brillante. La stella brillante so che dovrebbe essere un puntino, ok? Dovrebbe essere un punto brillante, non lo è a causa della turbolenza atmosferica. Capisco com'è deformata e applico su questo specchio una deformazione uguale ma di segno opposto. La combinazione delle due cose fa sì che la stella diventa immediatamente puntiforme. Questo pone un problema, perché se io voglio osservare la galassia debolissima, lontanissima, che è sfortunata perché nei suoi paraggi non c'è nessuna stella brillante, non ho nessuna possibilità di fare questa misura. E per questo ci sono delle altre tecniche che sono usate ormai da una decina di anni, in cui viene sparato un raggio laser da terra attraverso il telescopio. Questi formano in cielo una, che noi astronomi chiamiamo stella artificiale, che viene usata per misurare questa turbolenza. Ci sono una serie di problemi ovviamente legati a tutta questa cosa. Il più banale che posso dire, che se si capisce rapidamente, è che facendo così io, dove ho il telescopio, sparo una quantità di luce colossale, che è quella che esce dal laser, e poi nella stessa zona voglio andare a misurare la luce di questa galassia lontanissima. È come se io volessi andare a misurare un rumore flebile e deliberatamente in vicinanza metto uno stereo ad alto volume per appunto fare questo tipo di misura, ecco. Però è una situazione molto interessante. Laser di questo tipo ci sono attualmente in Cile, alle Hawaii, ce n'erano anche nel sud della Spagna fino a poco fa, gestiti da dei telescopi tedeschi. Sono meccanismi molto complicati, e per cui appunto si tende anche in questo caso a fare economia di scala mettendoli nei posti dove già ci sono un grande numero di telescopi. Roberto, un'altra domanda da farti: chi decide effettivamente se il fronte d'onda che sta arrivando direttamente dallo spazio è coerente oppure no? Cioè, come facciamo a dire che quel tipo di immagine che ci sta arrivando non è coerente con quello che dovrebbe essere? È una questione più software o una questione più hardware? Questo viene fatto da quello che si chiama sensore di fronte d'onda, che è un dispositivo che a sua volta deve essere molto veloce, una specie di telecamera molto rapida che misura in continuazione la coerenza del fronte d'onda. Questo è un, tra l'altro, negli istituti di ricerca vengono sviluppati questi tipi di sensori che ovviamente devono essere il più possibile precisi, il più possibile efficienti, perché la quantità di luce a disposizione è piccola e così via. E tra l'altro è interessante che noi abbiamo lavorato molti anni su questo argomento e siamo stati poi contattati da delle associazioni mediche per adottare questi tipi di fronti, sensori di fronte d'onda, per esempio per misurare le aberrazioni nell'occhio umano, che è un problema in un certo senso molto simile, anche se differente ovviamente su scala. Chiaramente il diametro dell'occhio è 8 mm anziché 8 metri, però la misura delle aberrazioni ottiche introdotte nell'occhio o introdotte dall'atmosfera sono di natura simile entro ampi limiti, e questo sensore è quello che è in grado di misurare questa cosa. Roberto, ti faccio l'ultima domanda: il futuro dell'ottica adattiva sarà di ridurre la dimensione sulla quale agisce il pistoncino, sarà di aumentare la precisione degli algoritmi che analizzano il fronte d'onda? Cioè, quale sarà il futuro di questa ottica, che poi è un'ottica che verrà sempre più utilizzata per via della mancanza di fondi? Non si potranno mandare sempre telescopi al di là dell'atmosfera? È una domanda da un milione di dollari, comunque, o di euro anche, che adesso fra l'altro vale di più, quindi è più interessante. Diciamo, ci sono due o tre fronti in cui ci si sta muovendo in questi anni. Uno dei fronti è sostanzialmente legato dal requisiti scientifici. C'è un grande fermento scientifico per la ricerca di pianeti extrasolari, che so che ne avete anche già parlato recentemente, e per fare questo c'è bisogno di quella che viene chiamata extreme adaptive optic, ottica adattiva estrema, diciamo, perché il numero di pistoncini necessari per riuscire, diciamo, a correggere la qualità dell'immagine in modo da riuscire a vedere un pianeta attorno a un'altra stella è estremamente più grande di quello che finora si è riusciti a fare. Quindi si va nella direzione di, come dicevi te, mettere molto più pistoncini su uno specchio. Un'altra direzione è che ci sono progetti in avanzato fase di disegno di costruire telescopi di, per esempio, 42 metri di diametro in Europa e di 30 metri di diametro negli Stati Uniti, e la possibilità è di costruire delle ottiche adattive in cui non c'è un solo specchio adattivo, un solo specchio con questi pintoncini, uno specchio deformabile, ma più di uno. Questi sono già stati fatti per un paio di esperimenti, qui abbiamo contribuito anche noi, per esempio, a un telescopio in Cile, e permettono di ottenere immagini panoramiche, quelle immagini che magari ogni tanto si vedono, con cui si fanno dei meravigliosi poster, perché in genere invece l'ottica adattiva, come dire, va a vedere il dettaglio, cioè di un'immagine di una galassia, io voglio vedere, ma in questo angolo della spirale della galassia voglio capire come sono messe queste 5 stelle, allora vado a fare un'osservazione estremamente mirata di un, noi diciamo, un francobollo di cielo, ok? Invece c'è un discreto fermento per costruire sistemi di ottica attiva che funzionano a grande campo. Per funzionare a grande campo, quindi riuscire a correggere una regione ampia di cielo, non basta andare a vedere come si deforma la luce di una stella, bisogna farlo di più di una stella. E se queste stelle non ci sono, per sfortuna, nella direzione di cielo in cui vogliamo vedere, bisogna farle artificiali. Quindi, anziché costruire una stella artificiale, uno costruisce una costellazione di tante stelle, ognuna creata da un laser. Per cui l'osservatorio astronomico del futuro potreste immaginarvelo con, non so, 4-5 fasci laser, che è quasi da discoteca, che creano questa costellazione artificiale, ovviamente momentaneamente per il periodo in cui viene eseguita l'osservazione. Roberto, ti ringrazio per aver partecipato a Cacciafotone, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è sabato prossimo, stessa ora, stessa radio